Allora, buon pomeriggio a tutti. Sono contento di vedere una platea sia eterogenea che folta. Bello vedere questa presenza, soprattutto per personaggio letterario, mi viene da dire, come Marco Giovenale, e secondo me è soltanto un onore averlo qui con noi oggi. E parto subito in ex abrupto, bello media stress nervoso, e lascio la presentazione direttamente a Marco. Io ci ho provato, ragazzi, lo giuro, io ci ho provato a racimolare cose e presentare Marco, ma sono andato su biobibliografia che hai messo su Gam e c'è 85 pagine, Marco non passa. Quindi lascio questo onere a te. Allora, vi leggo io l'85 pagine. No, intanto vi ringrazio e ringrazio la libreria e voi che ascoltate di essere qui, e mi scuso ancora per chi già la volta scorsa e segnatamente a giugno era venuto, e purtroppo però siamo stati, il bradisismo ci ha messo lo zampino e Trenitalia di più, quindi purtroppo, come Ciro sa che è stato gentilissimo, mi ha raggiunto comunque alla stazione, io sono arrivato qui in tempo per comprare due sfogliatelle e tornare a me. E la presentazione era finita, la libreria chiudeva. Per cui grazie a voi di questa ospitalità, e noi siamo qui, penso, nell'ambito del laboratorio, ma con appunto la loro veramente grande cortesia e gentilezza anche per ospitare questo libro che si intitola Prima dell'oggetto, che è uscito lo scorso anno e raccoglie alcune prose che in realtà alcune di queste risalgono addirittura come abbozzo agli anni 90 e svolgono un discorso però un po' legato anche alla prosa in prosa e quindi non alla prosa poetica, con qualche deviazione narrativa, più strettamente narrativa, sempre comunque con qualche difficoltà, qualche glitch, qualche intoppo. E il libro è stato pubblicato, quindi mi corre l'obbligo di fare un altro ringraziamento, dalla casa editrice De Click di Carlo Sperduti, che è una delle non molte, per fortuna nemmeno neanche troppo poche, case editrici indipendenti che da anni insomma si occupano di seguire un panorama di scritture spesso in prosa breve che normalmente l'editoria così diciamo mainstream non pregia particolarmente. Io dico sempre questa cosa che vale da quando più o meno ho contezza io, quindi già alla fine degli anni 80, inizio anni 90, ricordo benissimo che proporre a un editore un libro di poesia poteva essere diciamo causa di terrore da parte dell'editore, ma proporre un libro di prose brevi voleva dire proprio rompere i rapporti con l'editore, perché era veramente il non nominabile del letterario in generale. Finché poi, non so se grazie a questa antologia che uscì nel 2009, prosa in prosa, non so se grazie appunto a editori di poesia anche di grande distribuzione che hanno iniziato ad accogliere e a sostenere anche libri che in parte si proponevano di offrire poesia, in parte anche prose, questa ostilità ha cominciato un po' a stemperarsi. Tant'è che, anzi, addirittura spesso escono per piccole, medie, grandi case editrici libri che sono di poesia ma che dentro hanno a volte anche un numero consistente di prose. Se non addirittura sono fatte tutte di prose, ma questo diciamo che è un po' più il caso degli editori che seguono un po' la ricerca letteraria. E come autopresentazione io mi fermerei qui perché sicuramente avrete molte più cose da domandare o da dire voi. Io partirei proprio dal principio, ovvero dal titolo e soprattutto il seguente sottotitolo, perché abbiamo prima dell'oggetto e contro le frasi, ma soprattutto aggregatore, installazioni, pieghe LED, strumenti slavi, Roma narra residui. Ora, le domande che vorrei porre sono due. La prima appunto circa il prima dell'oggetto, perché comunque vediamo che la materia all'interno del testo non solo è in continua trasformazione, ma soprattutto viene vista sotto vari punti di vista. Quindi effettivamente si tratta di una smaterializzazione che va dal grezzo e poi al complesso, o comunque si cerca di vedere al di là di quello che è l'oggetto? Cioè, quindi il titolo è una chiave di lettura in questo caso? è un po' tutte e due le cose, nel senso, un po' era uscito nel 2024 questo libro Oggettistica, che avevo iniziato a scrivere nel 2013 e che vede la luce appunto 12 anni dopo, nel 24, del 2012, 11 anni dopo, nel 24. E quindi cosa c'è prima dell'oggetto che Oggettistica cerca di venderci, di questa particolare forma di scrittura per cui ogni testo sembra un po' venire da un bazar delle stranezze, una Wunderkammer molto densa di cose. Che cosa c'è prima dell'oggetto? Un po' c'è anche una sorta di tentativo di svincolare quella che comunque spesso è considerata, e in Oggettistica spicca particolarmente, una scrittura con delle tendenze anche giocose, ironiche, sorridenti, comiche, svincolarla dalla, diciamo, dal pregiudizio che vuole che il comico sia completamente alieno da qualsiasi tipo di indagine sugli oggetti. Se ne ride e finisce lì. In realtà, a parte Oggettistica stessa, ma questo lo diranno i lettori, non posso dirlo io, ma in più questo libro, almeno nelle intenzioni, vorrebbe proprio soffermarsi un secondo prima dell'oggetto di cui sta dando in qualche maniera il perimetro, il disegno, l'ombra, perché perimetro, disegno danno già l'idea di qualcosa che ha a che fare con il realismo, e la ricerca letteraria da sempre un po' guarda con un po' di sospetto il realismo nel senso stretto. E quindi da una parte c'è questo, dall'altra c'è anche un'idea di, ovviamente, di continuazione del discorso di Oggettistica, quindi di mettere in crisi le frasi, contro le frasi in questo senso qui, mettere in crisi alcune idee troppo fisse, troppo rigide di sintassi, un po' come in fondo fa un po' tutta la tradizione della ricerca letteraria non da oggi, e molto, da molto prima anche che io nascessi. E poi il sottotitolo un po', diciamo, fa una sorta di elenco di cosa ci si può trovare. Innanzitutto è un aggregatore, quindi tiene insieme molti materiali, come ci stanno l'aggregatore internet che in base a ciò che esce sulla rete capta e ti riporta sulla pagina anche senza valutare per genere, semplicemente se tu hai dato delle determinate istruzioni, tutto quello che esce su internet di un certo tipo rientra, e i tipi sono questi. Installazioni, ma anche se in realtà in questo libro forse è un po' un numero limitato di testi, in particolare ce n'è uno piuttosto lungo che potete trovare, adesso ve lo dico, a pagina, di cui leggerò poi una parte proprio perché sia un testo installativo, 107, che si intitola Affidiamo a questa dispensa il difficile compito di lasciare una traccia, che ovviamente già nel titolo un po' adombra il tipo di sorriso che c'era nel libro Oggettistica. Pieghe LED vuol dire che in qualche maniera abbiamo qualche lucina, no? Che non vuole essere lirica, memoriale, eccetera, però bene o male questi sono testi che sono nati negli anni 90 quando per varie contingenze biografiche con cui non vi sto a annoiare, diciamo, attraversava un momento non particolarmente lieto e felice, e questo portava tutta una serie di osservazioni, soprattutto viaggiando nella parte centrale di Roma, dove poi di lì a poco, proprio alla fine del secolo, all'inizio del nuovo, avrei lavorato per 10 anni come libraio, e mi trovavo quindi a viaggiare per zone diciamo non particolarmente favorevoli a chi, diciamo, un portafoglio magari aveva soltanto 4 centesimi, per dire. Quindi come anche in poesia mi è capitato con alcuni libri, uno dei luoghi di ricetto di una persona che per un periodo della giornata deve, per motivi di lavoro, di pausa, non può spendere neanche per, cioè, tutto più per un caffè o un tramezzino, essendo una città, Roma, particolarmente ostile, un po' come Firenze, un po' come tutte le grandi città, alla sosta, alla sosta, diciamo, scioperata, inoperosa, tra virgolette, ma anche senza virgolette, povera, ecco, mi trovavo a sostare nelle chiese, che sono dei luoghi meravigliosi dove osservare delle meravigliose opere d'arte senza necessariamente dover tirar fuori denari, anche se andate, per esempio, volete vedere il ciclo di San Matteo nella chiesa di San Luigi de Fiorenti, no, scusate, di San Luigi de France, sì, San Luigi dei Francesi, dietro praticamente Palazzo Madama, per vedere l'intero ciclo dovete mettere il soldino nel bussolotto, quindi si accendono le luci, se no non lo vedete. Quindi non vale sempre questa cosa, però di solito insomma valeva. E quindi ci stanno, infatti una delle parole che rientra in questo sottotitolo è Roma, ci sono dei luoghi che ritornano, come per esempio la chiesa di Sant'Agnese. La chiesa di Sant'Agnese sta a Piazza Navona e ha delle caratteristiche anche dal punto di vista artistico che in qualche maniera vengono riprese in più punti del libro. Perché in più punti? Perché una delle altre caratteristiche che ha questo libro è quella della variazione su un unico tema, quindi c'è un testo, una scena, una figura, un luogo che viene toccato ma anche ritoccato poi successivamente, con una sorta di appunto sì, variazione sul tema. Gli strumenti slavi, cioè l'idea un po' dello strumento quasi giuridico con cui condannare o assolvere qualcuno, ma slavi, c'è tutta l'idea di una sorta di malinconia di fondo che nel mondo slavo, per chi si interessa, che ama la poesia slava, è per certi aspetti una sorta di corda costante, e quindi c'è anche questo, quindi non c'è soltanto il sorriso, ma vorrebbe esserci anche questo. Nar residui, che questo è un neologismo strano, dice semplicemente che appunto si tratta un po' di una deriva di testi degli anni appunto molto precedenti gli altri libri. Chiacchierato molto, però spero di aver spiegato. No, anzi hai risposto anche alle altre domande che ti avrei fatto dopo. Io entrerei direttamente nel vivo del testo, perfetto. Con pagina 23, vai, 15. Vai. Io. Allora, pagina 23, storia dell'episodio sul corso. Cresciuto molto basso, curvo e con le mani dietro la schiena, perde tempo risalendo corso Rinascimento. Perde intuito, anche parola, osservando, dai lineamenti rovinati, inutilità che seguono. Non c'è mai nessuno, invece, nei corridoi del chiostro. L'oratorio non ha le bocche. Cosa non manca? Le inarcature tra un alto rilievo e il successivo, che sembrerebbero prefigurare la cornice di quel ritratto astratto di Epicuro che al vecchio suonato, sognato, avevano commissionato quando era giovane. Il tempo passa, è malatissimo e nonostante l'assenza di voci negli ambienti lineari e cavi, non lo chiamano. Tutto è frammentato in logiche differenti e formano gradini, spessori continui inattraversabili. Non smette di perdere tempo sul corso. Ah, secondo me questo testo è molto rappresentativo, non soltanto è coerente con il discorso che ho fatto circa comunque la questione di chiese, architetture, ma in particolar modo ci ho visto molto una sorta di ready made, un'impalcatura ma anche un'attenzione a livello proprio fotografico. E infatti ho notato anche un qualcosa che poi attraversa tutto il libro, ovvero una continua contrapposizione tra quello che è il materialismo poi e la continua astrazione e sensazioni che però non trovano casa, cioè queste sensazioni che sono effettivamente abbandonate in un certo senso al passante. Ecco, molto molto molto interessante. Grazie. Io sentirei aggiungere un qualcosa collegandomi anche al discorso dei non residui. Prima di tutto volevo porre all'occhio un'osservazione, nel senso che i testi non finiscono mai, non c'è mai una punteggiatura, non c'è mai un punto che dice ok, qui ora l'assetto apparentemente narrativo sta finendo, cioè la microstoria che ho raccontato è terminata e ora può passare all'altra. In qualche modo c'è sempre questa soluzione di continuità, e semmai lo scarto avviene a livello microtestuale, più che macrotestuale, mi sembra. Nel senso che proprio il termine nar residui, che richiama questo aspetto residuale del materiale che viene preso come da produrre, in qualche modo, da assemblare, richiama anche un po' a quell'operazione che Marina Ciaco, credo, in configurazioni, parlando di post-poesia, cita nei dispositivi, nel senso che la tua scrittura, e qui forse arrivo al nucleo, ha a che fare effettivamente con procedure, quindi una scrittura procedurale, un ambito di scrittura della ricerca che in qualche modo cerca di prendere il materiale che già c'è, quasi come dice Bourriat, prendere ciò che abbiamo, non innovare, prendere ciò che già esiste e immetterlo nel tessuto della letteratura per far sì che nulla venga perduto o in qualche modo rendere presente, cioè evidente, la perdizione costante, che mi sembra ci sia anche all'interno di questo libro, non so, nel movimento poi macrotestuale invece si percepisce questo costante sgretolamento che a livello linguistico si fa sgretolamento sintattico, slittamenti semantici, glitch di significati, eccetera. E invece a livello macrotestuale mi sembra si faccia invece il significato appunto dello sgretolamento generale. C'è quindi in te questa intenzione in qualche modo di connettere tutto un tipo di letteratura generale, in qualche modo, di post-poetica, poi all'interno della pagina, all'interno del testo? Sì, tra l'altro questo è un libro che ha la singolare il singolare atto di nascita di non avere che molto pochi materiali riportati, cioè ripresi da fonti diverse. Quindi il discorso procedurale è valido intanto in quanto opera con la stessa, se vogliamo, con lo stesso distacco con cui si opera spesso con materiali sui quali si agisce con cut-up, però su testi che magari erano scritti quasi ispirati negli anni 90 miei, quindi alcune cose erano anche uscite in rivista magari, diciamo, da una parte c'è una sorta di raffreddamento della temperatura, diciamo, egotica, centripeta, no? Si cerca di stare quanto più possibile lontano da qualcuno che non tanto che dica io, quanto che imponga all'altro le modalità di lettura di questo io, perché questo è il discorso dell'assertività, non è il fatto di dire qualcosa, tutti dicono qualcosa, io sto dicendo qualcosa in questo momento, ma è il tentativo progressivamente fallito, recuperato, perché è impossibile una non assertività al 100%, di lasciare sempre una quantità di margini che sfuggono da tutte le parti sulla pagina. O come disse una volta Michele Zaffarani, lo cito sempre, lui si arrabbia per questo e per questo lo cito appunto, che è l'autore che cerca di assentarsi un istante prima che arrivi il lettore, in maniera da far sì che, ecco, per esempio, letto dalla sua voce il testo, io l'avrei letto in maniera diversa e sicuramente avrei intenzionato con le mie inflessioni, e quindi è impossibile non essere, soprattutto leggendo una sorta di diciamo semaforo che dice al lettore qui vai, qui fermati, qui c'è una pausa dove tu devi in qualche maniera riempire lo spazio con un tot di sentimento di questo o di quest'altro tipo. Invece quanto più un testo probabilmente si allontana, questo dico probabilmente, l'intenzione sarebbe quella, da un'idea di assertività così congegnata, tanto più letto da più voci diverse crea delle configurazioni diverse. Poi chiaramente ci sono delle cose molto banalmente letterarie, cioè che rispondono a dei meccanismi letterari, cioè l'idea di, c'è una tipologia di fondo, l'avete visto nel libro, che dice praticamente perde tempo risalendo corso di nascimento e poi continua dopo, l'ultima frase è non smette di perdere tempo sul corso. Quindi, chiaramente, no, cioè, è logico, no, che uno ha l'idea di questa persona anziana curva che lentamente procede su questo corso, che quindi si può immaginare abbastanza lungo per le sue energie, che perde tempo come si perdono le monete, non soltanto perde tempo nel senso che indugia, ma anche in questa accezione. Quindi diciamo sì, ok, d'accordo, ho messo il lettore davanti a un video in cui può scegliere quale delle due strade prendere, però poi più in generale credo, spero, non so se ci sono riuscito, il testo in sé al suo interno ha altri dispositivi, altri meccanismi di sgretolamento della certezza di ciò che si sta narrando, senza per questo però perdere una sua natura in qualche maniera narrativa, perché in qualche maniera volendo potrebbe anche essere un soggetto narrativo, questo, cioè, non è completamente sbagliato pensarla così. Quindi c'è questo discorso delle procedure, però è così articolato, come ho cercato verbosamente di dire. Certo. C'è qualcosa? Sì. È qualcosa da dire? No, no, no. Dopo sì. Allora, io mi sentivo di leggere questa prosa, effettivamente, poi la domanda che mi viene da porti prima ancora di leggere, anche per definire un po' gli occhi di chi non è proprio pratico di questa tipologia di scrittura, effettivamente, come possono essere definite, cioè come può essere definito questo libro? Questa qui è una domanda molto provocatoria che va a domani tipo a inserirsi in un discorso di non incasellabilità del genere e della categoria di scrittura. Effettivamente tu come definiresti questo libro? Una poesia, una post-poesia o qualcos'altro? Farei, se possibile, non so, anche un piccolo excursus molto breve tra il filo rosso che collega prosa in prosa, cose chiuse fuori, e prima dell'oggetto, perché se sono comunque tutti e tre strettamente collegati, comunque anche leggendo cose chiuse fuori e prestando anche particolarmente attenzione a quelle che sono la fotografia, quello che è il mondo cinematografico, anche sembrano tutti e tre molto pregni e soprattutto diciamo che letti assiduamente insieme anche continuativi in un certo senso, cioè si compensano su vari fronti. Ti ringrazio, no, questo sì, questo è un filo che può essere tracciato, senz'altro. Anche perché, per esempio, cose chiuse fuori, che è un libro quasi soltanto di poesie sostanzialmente, sì. Che è uscito per Aragno, lì veramente c'è la scena del sedere, dell'attendere il passaggio del tempo, in perdere tempo in questo senso nelle chiese è costante, c'è tutta una serie di testi che osservano tutta l'architettura, le macchine cattoliche della superstizione, della religione, in maniera più o meno fredda e appunto osservativa. No, io come lo definirei questo libro? Sicuramente, allora, mentre forse avrei meno difficoltà a dire che per oggettistica che si tratta di prosa in prosa, quindi una, come direbbe Jean-Marie Glaise, una prose très prose, che quindi non ha intenti specificamente narrativi e si mette fuori da tutta una serie di meccanismi che noi normalmente attribuiamo alla poesia, o che dovrebbe in qualche maniera, pensiamo, la poesia avere. Per questo libro qui io parlerei molto più direttamente di ciò che forse interessa realmente di più, non soltanto a Glaise come teorico. Qui ho portato con me la traduzione parziale di un libro che Glaise ha pubblicato nel 2009, che raccoglie tutta una serie di saggi che, se non sbaglio, vanno dalla fine degli anni 80 fino ai primi anni 2000. Il libro è uscito nel 2009 in Francia col titolo Sortie, uscite, e una selezione di questi testi è stata tradotta da Michele Zaffarano per l'edizione TIC col titolo Qualche uscita, perché il libro intero è molto spesso, e che ha dato un po' anche, diciamo, vita a tutta una serie di discussioni, di dialoghi e di riconoscimenti di cose che in realtà noi stavamo già facendo prima ancora forse di conoscere tutta una serie di autori, e quindi anche l'espressione prosa in prosa la trovate qua dentro. Bene, quello che forse più interessa Glaise, più ancora che definire qualcosa post poesia o prosa in prosa, o ci sono vari altri termini che intervengono, forse è una sorta di, ormai credo attestata anche in generazioni molto giovani, indifferenza alla distinzione di genere. Cioè, se si parla in ambito appunto politico, sociale, di fluidità, gender fluid, di fluidità di genere, non vedo perché la letteratura debba costantemente continuare a incasellarsi negli scaffali che il commercio di dopo forza programma, progetta per poter vendere questo e quello. Ci sono tutta una serie di materiali, pensiamo soltanto a, la critica già si è inventata un altro nome, iconotesto, ok? Quindi ci sono i testi con le fotografie dentro. Va bene, però questo Denis Roche lo faceva negli anni, fine anni 70, inizio anni 80 già. C'è tutta una tradizione, ci sono tante tradizioni. Noi per il sito che abbiamo creato, GAM, nel 2006 abbiamo individuato soprattutto quelle con cui più riuscivamo a dialogare per motivi linguistici, che erano quella anglofona e quella francofona, però ci sono tante tradizioni in cui queste distinzioni diciamo hanno da tempo perso senso. E soltanto in Italia, forse per un'eredità crociana, per una non so cosa, per una insistita, diciamo così, ossessione di schedatura delle cose, che è nel precipuo dell'Accademia Italiana, gioco forza, dobbiamo rimanere sempre in queste scatole qui. Ma in realtà non sono ancora più che vasi comunicanti, è veramente un flusso di scritture dove a volte addirittura c'è la performance che diventa testo, ci sono pièce teatrali che diventano opere installative. Io cito sempre, purtroppo è scomparso da poco, Valerno Carinà. Se voi leggete su Nazione Indiana, poi su Gamma l'abbiamo anche ripetuto, la traduzione che Andrea Raus ha fatto della conclusione del suo testo teatrale, Il dramma della vita, praticamente quello è un testo teatrale, ma è un testo teatrale per certi aspetti irrappresentabile, perché è composto di migliaia e migliaia e migliaia di nomi di persone che, secondo Novarinà, vengono prima di Adamo. Io mi chiamo Adamo e prima di me ci sono, e via una valanga di nomi. Chiaramente è una stele, no? Che fai? Tu vai, sì, li vai in scena e li leggi tutti, anche sì, d'accordo, però questo diventa anche un testo letterario, diventa un testo letterario di ancora un tipo diverso, un testo letterario che sicuramente un grande editore ha difficoltà a pubblicare, ma è un testo letterario che in Francia invece i grandi editori non hanno difficoltà a pubblicare, e forse l'Italia ha dei problemi con questo tipo di scritture, che appunto come una stele si fanno guardare. C'è un libro di 10 anni fa di Reed Scott, pubblicato dal MIT, che si intitola, secondo una frase di Robert Smithson, quindi parliamo di arti visive, parliamo di land art, parliamo di appunto di un osservatore molto attento, artista visivo, attivo negli anni 60 e 70, il titolo del libro è Words to be looked at, quindi parole da guardare, no? Sostanzialmente. Voi avete questo testo di Novarinà che Raus si è preso l'incarico di tradurre tutto quanto, ma sostanzialmente è veramente come una stele egizia, anche se sapete tradurre i geroglifici, probabilmente sì, in quel caso forse sì, però nel caso di un elenco di nomi magari, ecco, ne leggete qualcuno, ci girate intorno, ci ritornate, vi divertite, perché sono nomi buffissimi, creati proprio d'arte per questo. Ora, quindi c'è una intersezione costante tra le arti. In questo caso abbiamo parlato di teatro e letteratura, possiamo parlare di cinema e letteratura, possiamo parlare di quello che volete. Cioè, per esempio, io continuo a pensare che una delle tecniche importanti in letteratura debba essere l'uso dei movimenti di macchina negli ultimi film di David Lynch, in cui pensiamo soprattutto a Inland Empire, in cui praticamente c'è questa ossessione dello sfocato e della progressione della macchina da presa che va verso un angolo dietro cui non sapete cosa c'è, però sapete anche che Lynch in uno degli episodi di Non fuoco cammina con me, proprio Twin Peaks, primo fa comparire quel barbone improvvisamente dietro l'angolo. Come? È Mulholland Drive. Ah, è Mulholland Drive, ecco, io me lo confondo sempre con Twin Peaks. E effettivamente lì sei terrorizzato appena compare quel volto, quegli occhi brillanti, e quindi non sai cosa sta succedendo. E magari però girando quell'angolo tu ti trovi davanti un comodino con sopra lume, finisce lì. E questa tecnica qui, diciamo, riportata a un tipo di narrativa che non sta lì necessariamente per invogliare il lettore a girare l'angolo e trovare la cosa meravigliosa, ma semplicemente a girare l'angolo e trovare l'infraordinario di cui parlava Perec qualche decennio fa. Ecco, questo è una tranquilla osservazione di un flusso di codici che, a mio avviso, appunto, è difficile inquadrare. Cioè, alcuni di questi oggetti non è che rifiutano, si mettono dopo la poesia, sono contro la poesia è morta, basta funerali. No, c'è un telemetro che è attaccato a una macchina fotografica, tu blocchi quello, lo stampi e poi non hai necessità di... Chiaramente poi, voglio dire, Fabiano dovrà mettere uno scaffale, cioè decidere probabilmente non mettere uno scaffale di poesia, nessuno si offende, io non mi offendo. Però critici letterari ancora fanno fatica. L'altro giorno c'è stato un convegno a Padova, in particolare si concentrava sulle opere di Bortolotti e Broggi, e effettivamente mi è sembrato di capire che ci sia stata una certa difficoltà a affrontare il nuovo con gli strumenti del nuovo. Tuttora una critica letteraria che è in grado di per dire, un autore a cui non sono neanche particolarmente vicino, ma con grande affetto, stimo e ammiro, che è Lello Voce, da anni dice che una lettura della delle scritture, soprattutto per voce, che hanno in cui la parte performativa ha un ruolo dominantissimo, trova una critica letteraria assolutamente impreparata a farci conti. Così come molto probabilmente, mi diceva Giuseppe Carrera, che è un musicologo, collezionista, studioso di Amelia Rosselli, che ha scritto anche un bellissimo libro, che però non c'entra con quello che sto per dire, nella lettura dell'allegato che conclude Variazioni belliche, quindi tutto il discorso che Amelia Rosselli fa sulla musica e la scrittura, è un testo che a tuttora oggi, spazi metrici dico, non è letto propriamente da critici che siano anche musicologi. E Carrera diceva, prendono delle cantonate impressionanti parlando di questo libro. Io non essendo musicologo gli credo sulla parola, però non stento appunto a riconoscere che se ci smettessero d'impegno, forse, e stiamo parlando di un libro una sessantina d'anni fa, cioè tanto, quindi voglio dire, e quindi ecco appunto questa idea di flusso in qualche maniera mette secondo me in grande difficoltà la critica, ma fin qui credo che è più la critica italiana le difficoltà, perché in altre culture sembrerebbe che le cose sono state affrontate già da tempo, e l'esempio inglese è un esempio abbastanza evidente. A questo punto farei leggere te. Allora, io ti propongo di leggere... Io propongo. No, perché per quanto riguarda la questione, tu parlavi di cinematografia, sì, e quant'altro, e a me a tal proposito ho trovato molto interessante a pagina da 73 a 78, in particolar modo la parte 2, il movimento che c'è tra i vari segmenti del testo. E un altro che è cinematografico, per esempio, è adesso, che non leggerò però, adesso leggo quello che dici tu, è La stanza del ronzio, della pagina ronzio. 91, che è un po' così. Ditemi voi, leggo. Io leggo La stanza del ronzio. Vabbè. Anche no, questo, sì. Cioè, possono essere letti entrambi. Come preferisci? Non voglio piagare l'uditorio. Allora, facciamo, leggo il più breve, dai, La stanza del ronzio, e poi vediamo se appunto c'è tempo, perché magari vorremmo anche... Ci sì, infatti, domande. Tra poco magari iniziamo a fare, prepararci qualche domandina. Allora, che è pagina 91, perché il libro si deve ripartire sempre dalla stanza accanto a quella dove è rimasta accesa la ventola o il riscaldamento qualcosa. Un motore di condizionatore piccolo che però fa non poco baccano, evidentemente nascosto in qualche muro e di cui non si vedono le fessure né ora gli interruttori di accensione. Uno si sbaglia sempre con altri bottoni che invece sono quelli della luce, ma comunque non c'è luce o ce n'è poca. Il corridoio, prima di arrivare alla stanza, o che separa le due stanze contigue o vicine, è invece proprio francamente al buio. La stanza accanto, da cui si parte, è indefinita, sembra una specie di semplice proiezione di idea di stanza, e se ne esce già. Si percorre allora quel tratto di corridoio che sembra ogni volta di lunghezza diversa, e si entra nella penombra della stanza del rumore, netto ma non violento. La porta non ha pomello o maniglia, ma una specie di buco, per cui ci si domanda come ha fatto quella a essere una camera d'albergo, o se non era tale, anche qualsiasi altra cosa. Entrando si ha l'impressione di una luce segmentata che venga da sinistra, come da un finestrone largo con veneziane abbassate. C'è un angolo di fronte alla porta, uno spigolo di 90 gradi, l'angolo di una stanza interna all'appartamento. Dentro questo angolo, in un modo che è parte visibile e parte no, è morto qualcuno con la testa sfondata. Non è chiaro se sia ancora lì oppure no, se la coscienza del fatto abbia a che vedere con una visibilità del corpo, del viso delicatamente piegato, con la carota sfondata, oppure no, se si tratti di un ricordo. Di fatto la preoccupazione è tutte le volte che si aprono le porte per affacciarsi all'interno dello spazio del rumore e si sta per aprire una seconda porta che dà di fronte alla prima sulla stanza ancora interna all'appartamento coincide con la preoccupazione, un blando timore, della presenza del morto, del corpo, della morte dunque, da un lato, e dall'altro con il pensiero per il calore che il termoregolatore genera, il getto di aria che non si sa individuare e che, se caldo, e non è chiaro se lo sia, non aiuta il corpo a preservarsi, anzi, c'è sempre il timore di qualche miasma, che però non si avverte, ma forse sì, si sospetta almeno. Poi bisogna partire e si cerca un bagno prima di mettersi in viaggio con gli altri, forse costretti, non si sa se prigionieri. Poi invece no, e ci sono scale che portano a quel corridoio buio di tutto, o che da quel corridoio portano all'esterno, dove è giorno. Notevole come alcuni edifici sappiano creare il buio e spezzare e rispezzare la luce da qualsiasi parte questa venga e con qualsiasi angolazione. Una natura narrativa, insomma, abbastanza evidente, però anche la natura linciana della scena. Infatti io, leggendo delle cose, cioè, in questo testo ho percepito dell'altro, come se dietro le parole effettivamente si nascondesse qualcosa. Poi però, effettivamente studiando apparati critici, è comunque cose che hanno a che fare con la letteralità, con la letteralità del testo di matrice cangiana-inglesiana, mi sono fermato. Ho detto, ok, cioè, questo testo è già evidentemente ciò che è. Cioè un movimento, una sorta di tipo di suspense, di sospensione sempre di ciò che è dietro l'angolo, come dicevi prima, in maniera linciana. E anche la narrazione in sé sembra sempre glitcharsi, sembra sempre avere dei scatti, sembra sempre andare non in maniera fluida. Sì, esatto, sembra sempre avere dei blocchi, ecco, quasi come se non ci fosse fluidità, se non nella percezione che ciò che si sta leggendo è un prodotto fluido, cioè un oggetto effettivamente estetico, di per sé fluido, non nella sua fruizione. E poi mi ha fatto molto piacere effettivamente ascoltarti, perché mi ricordo in Cambio di Paradigma, effettivamente uscito su Nazione Indiana, c'era quella contrapposizione tra installazione e performance, in qualche modo, e volevo chiederti effettivamente come si è evoluto questo rapporto negli anni. Che anche come dicevo prima di arrivare qui, a me piace molto quella più che performance, poi tu la chiami esecuzione, effettivamente, esatto. La lettura ad alta voce, come è cambiato effettivamente questo rapporto? Che valore ha per te oggi nel 2026 effettivamente la lettura ad alta voce condivisa in uno spazio condiviso e ascoltabile, quindi sensoriale, quindi la parola che si fa materia in qualche modo? Cioè, un meccanismo secondo me molto delicato, nel senso che il rischio a cui io chiaramente, perché comunque c'è un tot di narcisismo, no? A chiunque fa piacere che il pubblico risponda in senso positivo, è evidente, è umano, però è un meccanismo secondo me delicato in cui il testo deve essere riportato sul piano vocale. Io qui prescindo un attimo da tutto il discorso, no? Che io spessissimo ciro Carmelo Bene, con cui spessissimo condivido il discorso del morto orale, quindi dello scritto come qualche cosa che è la cristallizzazione di un momento che non è ripetibile, che è invece quello il rivoluzionario del letterario. Se io, come in questo caso qui, parto da uno scritto che è di suo già un campo minato di è un piccolo, adesso faccio la sparo grossa, un piccolo giardino di sentieri che si biforcano, e voglio portarlo a un pubblico, il tentativo che faccio, che non so se sono riuscito a fare qui, il fatto stesso che mi si è alzato in piedi per poter porgere meglio il testo, facendo lavorare diversamente il plesso da come si fa quando si sta seduti, è già un gesto in qualche maniera, una captatio benevolentiae, perché chiaramente la voce arriva in un altro modo. Però la mia idea è quella di riportare sul piano dell'esecuzione quello che cerca di evitare di fare il testo quando si parla di non assertività, cioè di evitare di dare al lettore appuntamento nei posti che il lettore già sa. Cioè, lo vediamo nel discorso politico soprattutto, no? Che è il luogo dove per eccellenza, no? Cioè, sapete benissimo quando arriva l'applauso. Che quando no, c'è il climax del discorso e gli scatta l'applauso. Cioè, beh, io lo faccio anche per esempio con alcuni testi installativi, Anche quando abbiamo fatto quella lettura a Pomigliano, c'è stata una lettura in cui praticamente l'elencazione dei vocaboli era così battente e che arrivati alla fine tutti sono contenti di aver sentito tutta questa mitragliata e si beano di questo, ma io sono contento, per carità, non è la mia volontà non è quella di far star male chi ascolta, però anche sì, nel senso di mantenere l'inquietudine. C'è cioè Giuliano Mese che diceva che la letteratura non è fatta per curare ma per ammalare. Io non voglio arrivare forse a quella radicalità, però sicuramente vorrei che quello che nel testo è a livello appunto di non assertività tenta di mantenersi sul livello di creazione di inquietudine e quindi di molteplicità arrivi al lettore durante la lettura, l'esecuzione che faccio ad alta voce, e non sempre ci riesco, ma qualche volta mi faccio magari prendere dal desiderio di connotare in senso teatrale in qualche maniera il testo, altre volte invece raffreddandolo troppo, che è un'altra forma di teatralità in fondo che la poesia italiana si porta appresso almeno negli anni 70. Insomma, delle letture che noi ritroviamo ancora su YouTube con un atteggiamento di freddezza che sembra in realtà prova a tirare proprio per questo. E quindi è questa la difficoltà e questa la delicatezza del meccanismo dell'esecuzione, che non è performance appunto, perché a mio avviso, posso sbagliare, però la performance intesa nella sua flessione poetico-teatrale cerca sempre, ripeto, io non ho trovato molto meglio di questa immagine, è un'immagine, quindi prendetela con quel tot di impressionismo che si porta dietro, di dare appuntamento al lettore là dove gli dice lo scrittore. La ricerca letteraria, è proprio perché è ricerca, non lo sa dove sta andando. In parte il testo registra questo non sapere attraverso una serie di meccanismi e l'esecuzione cerca di riportare questa incertezza sul piano della voce. A volte non ci riesce, a volte ci riesce meglio, a volte ci riesce peggio, a volte si fa prendere dallo scherzo, dal gioco, per esempio con oggettistica è facile perché sono testi spessissimo giocosi, quindi che chiedono un po' lavorano su un altro piano per inserire il discorso della ricerca, non su quello. Mentre con Prima dell'oggetto è più facile fare questo tipo di discorso, l'ho appena tratteggiato, credo. Io ho paura sia un po' una super cazzo, però faccio la stessa la domanda. E vabbè, quindi parlando proprio di David Lynch, io ho sempre notato che i critici cinematografici che affrontano insomma la sua opera non si confrontano quasi mai con i critici invece artistici che hanno insomma osservato la pittura, no, di Lynch. E mi sono sempre chiesto perché non lo faccia, no? La risposta a volte è che magari il critico cinematografico ha un po' di soggezione perché non percepisce di non capirne di pittura, quindi dice vabbè, io parlo del cinema di David Lynch, però mi sembra un'occasione mancata, perché invece Lynch insisteva sempre che non c'era nessuna differenza tra quello che faceva con la pittura e quello che faceva con col cinema. E la cosa che invece i critici artistici notano della pittura di Lynch è che, ovviamente con termini sempre estremamente contorti, no? La percezione schizzoide della materia, tutto certo. E che magari invece si potrebbe riportare, cioè nel senso le cose non umane sono percepite come li percepiscono gli schizofrenici, cioè che le cose non umane sembrano umane e invece gli umani sembrano cose nei quadri di Lynch. E la stessa cosa però secondo me succede anche nei film. Prima dicevi Twin Peaks, in effetti ci sono un sacco di inquadrature di Twin Peaks, anche in Fuoco cammina con me, dei ventilatori, no? Oppure il fatto che il demoniaco non sia nei personaggi che poi agiscono, ma nell'elettricità. Questa cosa io mi sono sempre chiesto poi come si faccia a trasporla nella scrittura. Ed è una cosa su cui mi sono davvero interrogato tantissimo. E volevo chiederti una cosa. Io noto per esempio in alcuni punti che mi sono segnato, per esempio a pagina 13, il 3, 6, 7 rigo della seconda, diciamo, del secondo paragrafo, che dice: lui sente annerirsi lo sguardo. Poi pagina 15, sì, dice, sì, ok, secondo paragrafo, terzo rigo, sta venendo sera da dietro le vetrate, ho quasi finito, ve lo giuro, pagina 22, ok, pagina 22 proprio sopra, la pioggia dopo qualche minuto li osserva, riprende e smette. E in questi casi c'è un altro pure a pagina 28. Credo, sì, la scriminatura della strada, per esempio, ci sono tantissimi casi comunque nel testo in cui mi sembra che tu provi, non so quanto effettivamente per intuito di scrittore oppure con volontà, a utilizzare i verbi in una certa maniera o comunque gli aggettivi in una certa maniera, in modo da rendere le cose, cioè gli oggetti, o anche alla fine la pioggia è una sorta di un'entità climatica, no? Atmosferica, umana. E volevo chiederti, secondo te l'italiano come lingua ha possibilità di fare questa cosa, cioè di trasmettere le cose, gli oggetti, visto che si parla tanto di oggetti, come umani, cioè come dotati di autonomia? Secondo me sì, nel senso che non so quanto le altre o alcune altre lingue, soprattutto quelle che non conosco, che sono tutte l'inglese e il francese. Siamo arrivati alla domanda. Parlavamo proprio con Ciro di questo, no, sappiamo benissimo, cioè, la filosofia greca è la filosofia greca perché c'è il greco che ha fatto in un certo modo. E secondo me sì, perché c'è questa possibilità, per esempio, del rovesciamento. Banalmente, quasi surreale, se uno volesse riportare tutto quanto al surrealismo, ma è una limitazione fortissima, anche appunto per quello che tu hai fatto, giustissimo, l'osservazione sulla pittura, comunque sull'arte, anche sulla musica di Lynch. Secondo me sì, è possibile, mi è sempre interessato questa idea per esempio, l'idea che sia la pioggia a guardare noi. Pensiamo a tutte le immagini di gocce che stanno nelle opere di Lynch, no? che stanno anche spesso nei dipinti, nelle opere delle persone disturbate psichiatricamente. Io sono moltissimo appassionato, per esempio, di art brut, di tutto ciò che è tutto il versante, no? Dell'arte ingenua, diciamo così, o non d'accademia, ecco. E lì ritrovo tutta una quantità di materiali che sono perfettamente paralleli al lavoro di Lynch, per esempio, dove appunto c'è l'oggetto che prende veramente vita, che magari è tessuto di parole, per esempio, no? Cioè questa, io ho preso parte insieme a tanti altri a una mostra a Ginevra che si intitolava Writing by Drawing, scrivere disegnando. Organizzata da Andrea Bellini a Sant'Adat di Ginevra, e lì era, non per la prima volta, perché credo la prima volta è stata nel 93, sempre comunque in area francese, se non sbaglio, no, svizzero francese, dove erano insieme in alcune stanze gli artisti, diciamo, con problemi psichiatrici molto seri, con storie terribili alle spalle, dai più famosi come Wölfli a personaggi, autori quasi sconosciuti, con delle opere meravigliose, sia graficamente, coloristicamente, ma linguisticamente, dove e altre sale dove invece ci stavano scritture asemiche, quindi semplicemente dei glifi, dei tratti, delle scritture che non hanno nessun significato, diciamo, sembrano essere frammenti di linguaggio, ma in realtà non lo sono. E negli artisti dell'art brut c'è un continuo flusso di linguaggio che a volte costruisce degli oggetti, quindi degli oggetti che sono fatti di linguaggio, e degli oggetti che prendono loro vita e sono loro i veri centri, i protagonisti dell'orrore, poi, perché poi spesso sono comunque scene abbastanza tragiche. E questo, quindi, io credo che sì, effettivamente sia una delle cose più interessanti sia da studiare in Lynch. A me sembrano moltissime opere sue, opere fatte, lui tra l'altro una mano strepitosa, una grande idea compositiva della scena, cioè, poi vabbè, insomma, gli studi sono studi d'arte che ha fatto, ma le sue opere sono perfettamente esponibili al Museo dell'Art Blu di Losanna tranquillamente. Potevano stare in quella mostra a Ginevra anche. Quindi sì, secondo me sì, c'è questa possibilità, e credo di tutte le lingue, per il fatto stesso che episodi diciamo di disturbo, di sofferenza, di inversione linguistica del soggetto che parla, che può essere di volta in volta un oggetto esterno, accade in tutte le lingue. Lì in questa mostra a far parlare gli oggetti e a mettere in evidenza le sofferenze, ma anche l'intelligenza, l'estro di questi artisti, erano penso tutte le lingue, c'erano francesi, belgi, c'erano giapponesi, c'erano non so, insomma, quindi anche altre culture. Posso fare un'altra domanda? Ecco. Questo mi porta appunto a farti un'altra domanda. Ieri sera siamo stati alla presentazione dei Quaderni di Poesia, sì. E, insomma, che è un prodotto molto filo accademico, nel senso comunque molto vicino all'università, le giurie sono accademiche, e io notavo, penso altri del collettivo notavano, che veniva sempre fuori, un po' diciamo il topos di queste presentazioni, la questione dello scavo, la ferita, l'io, la profondità, e, cosa che io mi sembra che sia un po' in contrapposizione invece con un altro modo di scrittura, no? Che non è per forza poesia o narrativa, perché come appunto cioè qui cos'è? Sì, cos'è? Però lì era la poesia, e volevo chiederti, secondo te c'è questa, non è una divisione, però vedi anche tu questa sorta di biforcazione, da un lato, tra virgolette, mi viene questo termine, però non è giudicante, regressiva, comunque conservatrice della poesia, che parla di poesia come scavo nell'interiorità, quindi l'io, no? Cioè l'io lirico che si deve porre in avanti, e poi invece è un altro tipo di scrittura che viene fuori da un po' di tempo ormai, che invece è quasi instupidita, rintontita dalla esuberanza degli oggetti, e che quindi, cioè, come non è una scrittura superficiale, è una scrittura che vede più da dire, cioè più profondità, più elemento, più materia nella superficie delle cose. Cioè il fatto che, ecco, a un certo punto gli artisti, cinematografi, musicisti anche, no? Cominciano o a riprodurre il suono degli oggetti, certo, oppure a rappresentare le bottiglie, no? Noti questa, insomma, che non si sana. Guarda, con Ciro qui in metropolitana stavamo parlando proprio della scena che ha accompagnato per tantissimo tempo tutta questa, diciamo, ambito della ricerca letteraria, Michele Zaffarano, Gerardo Bortolotti, Alessandro Broggi, eccetera, Sara Davidovic, anche più giovani come Fabio Teti o Simona Menicocci, che è la scena tra Roma e Napoli, io chiaramente per motivi geografici più Roma conosco, dei musicisti di improvvisazione, quindi Luca Venitucci, qui a Napoli c'è Leo Martuscello, oppure Roberto Bellatalla, Marco Ariano e altri, che nel momento in cui mettono in scena una... cioè che non hanno una composizione, cioè non c'è un pentagramma, ovviamente, ma diciamo la jam session è fatta per esempio con dei giocattoli, cioè invece di avere chiaramente percussionisti, Bellatalla è un violoncellista, eccetera, però si possono fare delle performance con dei risultati incredibili, soprattutto quando è un ensemble, anche se anche i singoli autori sono straordinari, con dei risultati quasi orchestrali incredibili, con appunto la voce degli oggetti, la voce della realtà reale. In quanto alla biforcazione, io ho sempre molta, cioè cerco di fare resistenza, però non ci riesco, a riprendere i vecchi termini della questione Pasolini-Sanguinieri di 1957, sulle pagine di Officina, per cui effettivamente Sanguinieri diceva c'è tutto un mondo che effettivamente non passa attraverso quello che Pasolini intende per sperimentalismo, ma di fatto continua ogni anno in Italia a ritornare questa biforcazione, che tendenzialmente in un discorso sulla transgenericità tenderebbe a dissipare. Nel senso che va benissimo che ci sia una parte dello spettro che si occupa esclusivamente di una banda di colore, e poi c'è un'iridescenza che va gestita a seconda di... E ci sono anche queste testualità qui, ma ce ne sono a centinaia in Francia e nei paesi anglofoni. E in Italia cominciano ad essere un numero anche considerevole. E sì, effettivamente ci troviamo di fronte proprio a delle alterità frontali. Cioè, io ho pensato, inventando la categoria di non assertività, di dare una vaga idea di che cosa può essere questo nucleo di differenza. Non è detto che sia il termine giusto, come non è detto che sia il termine giusto scrittore di ricerca, a cui moltissimi anche della scrittura di ricerca, nella quale non si riconoscono neanche loro. Però di fatto sì, effettivamente c'è. Poi ecco, sul discorso dell'io, io ecco, vedi, sul discorso dell'io, virgola, io, cioè, è inevitabile, no? Non è mai un discorso grammaticale, di persona grammaticale, è sempre un discorso di distinzione tra il moi e il je, per usare i termini, no? Che usava bene riprendendoli da Lacan, cioè soggetto dell'inconscio che non sale sulla sedia e dice la poesia, si rifiuta, fa un'altra cosa che tu non ti aspetti, e invece il moi che corrisponde dall'appuntamento al lettore, dove il lettore si aspetta che il testo stia, e sta là. A volte c'è il sonetto, a volte non, invece sono tutti versi liberi, però ti dicono cose che... Cioè tu vai lì e sai già che dopo la cavo c'è quel dispositivo. E poi che questo riesca a produrre, a gestire una ferita e uno scavo, è degnissima cosa. Infatti non c'è nessun tipo di moralismo su questo, della parte, infatti, della domanda, sì. Né da parte mia. Però di fatto io credo che ci siano delle condizioni socio, psicologico, psichiatriche nella contemporaneità, vediamo cosa succede nell'ambito politico del mondo, che forse ci chiedono appunto di allargare l'ambito delle scritture e di non pensare che ci sia soltanto un modo per affrontare la ferita. Confabulano. C'è qualcun altro che vuole chiedere? Sì. Ah, vai. Volevo provare a fare un ragionamento, non so se è fondato, quindi questa consisterà la domanda. Si è fatta la sperimentazione, può avere un numero tendenzialmente infinito di versioni, il che renderebbe difficilissimo seguirla, sia per la critica che non sviluppa, non possiede i mezzi per interpretarla, sia per il pubblico che invece almeno condivide quantomeno il linguaggio in cui la sperimentazione si esprime. Ma poi, aumentando esponenzialmente l'esperimentazione, gli autori non è capace di stare dietro a tutte le proposte. Quindi come si fa allora poi a non perdersi qualcosa di interessante? Come si fa a non frammentare esponenzialmente domanda. Il pubblico? Giusta domanda. E tra l'altro è difficile che un mercato per come è adesso, un mercato librario, riesca a seguire questa cosa qua. È molto più facile, no? Stare nelle scatole, poesia, prosa, perché lì sai che becchi quel tipo di prodotto e sei sicuro. Quindi non lo so, non è che c'è una risposta su questo. Quello che è sicuro è che per quanto riguarda i critici, alcuni dei quali hanno fatto un lavoro egregio, adesso non voglio fare tutta l'erba un fascio, però è vero che i critici, diciamo, ripeto, tolte un buon numero di, insomma, di casi eccezionali, Marilina Ciaro è stata nominata prima, i critici hanno avuto dagli anni, fino agli anni '80, se avessero avuto un po' d'orecchio per la Francia, adesso, quindi sono circa quasi 50 anni, parecchio tempo per accorgersi almeno di alcune cose. E diciamo, se queste teorie, se questi diciamo, strumenti critici non si sono sviluppati, forse un po' effettivamente c'è di rigidità nell'accademia, che avrebbe invece potuto nei programmi dell'università, in quello che poi arriva nei vari libri che si fanno studiare ai ragazzi alle medie e soprattutto al liceo, avrebbero potuto insomma no, introdurre, e invece poi nei libri ci trovi, non so, una volta ci trovavi Calvino, magari Le città invisibili, magari adesso ci trovi, che ne so, Moccia, per dire, no? Adesso per carità di Dio, insomma. Però, e questa è una difficoltà che effettivamente rischia di diventare, di superare il punto di soglia oltre il quale non è più recuperabile, perché se appunto, se come dici giustamente tu, le scritture cominciano a diventare ancora quantitativamente di più, sta poi al lettore effettivamente tuffarsi in questo mare e sperare nella fortuna, perché se si aspetta qualche cosa dall'accademia, dalla scuola o dall'editoria, esatto, sta messo male. Tant'è vero, per esempio, sul discorso editoriale rimaniamo a un certo numero abbastanza limitato di editori. Diciamo, questo in qualche maniera adesso aiuta, nel senso che tu vuoi orientarti in un ambito, un certo ambito, sai che c'è The Click, Icona Liber, Benway Series, Tic, che l'ho detto quasi tutti, insomma, che Diaforia. Che Arcipelago. Arcipelago Itaca, ovviamente. E quindi, diciamo, insomma, un po' più o meno ti orienti così. Poi in rete qualche strumento lo trovi, ok, però col tempo io una prospettiva come quella che tu diciamo configuri, prefiguri, la trovo sensata. E quindi è difficile da affrontare sempre di più. Per esempio, con Valerio Massaroni abbiamo creato questa cosa che si chiama centroscritture.it, dove facciamo dei corsi proprio per cercare di dare dei parametri, cioè per affrontare la poesia soprattutto di secondo Novecento fino ad oggi. Ma poi abbiamo fatto corsi su tutto il Novecento, abbiamo parlato dei futuristi, veramente da Caproni a tutto l'arco costituzionale, dalla sinistra, e questo funziona abbastanza, però certo siamo due, come diceva Troisi, io sono uno, quelli sono milioni che scrivono, io sono uno che legge. Sì, ho pensato anche io la stessa cosa. Anche se lì il problema era diverso, il rapporto tra il lettore, qui è proprio la formazione di un pubblico. Di un pubblico, certo. Che però c'è, crescerà, questa è la mia sibilla, non lo so. Okay, facciamo un'altra domanda riagganciandoci anche al libro. Volevo chiedere se secondo te questa opacità del linguaggio, quindi anche una sorta di indecisione tra virgolette comunicativa, fosse influenzata da quelli che sono gli strumenti digitali e le piattaforme, facendo anche riferimento al testo a pagina 95, Free at Last. Certo. Prima di raggiungere, accodarmi a Federica con questa domanda e aggiungendone un'altra, cioè qual è il tuo pensiero, più che altro, comunque sapendo il tuo rapporto con GAM, comunque con la proliferazione digitale di articoli, saggistica e anche di testi talvolta. Qual è il tuo rapporto effettivamente con il digitale, anche da come emerge in questo testo Free at Last, che secondo me è molto indicativo in qualche modo, e poi tra l'altro con questo titolo che riprende il discorso di Martin Luther King in maniera paradossale in qualche modo. Sì, leggendo prima il testo. Così sappiamo effettivamente questa volta. Il libro è fatto in questo modo, cioè me lo accorgo dopo. Che è fatto così, che sostanzialmente le prime pagine sono un po' più astratte e poi sì, si va più verso il narrativo. Qui siamo a pagina 95, quindi è molto più narrativo. Free at Last. Sono molto, molto felici perché le compagnie telefoniche stanno facendo offerte mai viste e sentite. Migliaia di ore di chiamate gratis, connessioni, migliaia di opzioni, di applicazioni, di messaggi, tutto con pochi spiccioli. Le società devono capitalizzare, i manager pagarsi la crioconservazione. La gente comune, in preda alla gioia e euforia normale nel primo tempo di tutti i film di catastrofi, invia messaggi e si connette. Tutti comunicano, sono felici e si fondano molti giornali e gruppi di dialogo nuovi, riuscendo ad abbattere radicalmente i costi dei contatti. Solitalmente, tutti in dialogo, piovono byte, piove anche pioggia normale da mesi, adesso in agosto, adesso in settembre, adesso in febbraio. I manager si allontanano in elicottero. Alcuni elicotteri abbattuti dai fulmini, i blog di satira fanno delle facili ironie, delle vignette sugli acidi, sugli stadi ormai impraticabili perché riempiti d'acqua come Chinozzi, adesso è aprile, maggio, poi di nuovo agosto. Ci sono delle rivolte, la polizia scivola, si combatte in galosce con gli ombrelli e i gas lacrimogeni idrorepellenti. Le lacrime peggiorano la situazione anche se di poco, comunicare non è sufficiente, mancando le verdure, raccolte e date a mani, mancanti, niente pane, città trascinate via dall'acqua. La rete è gratis, ma zero elettricità su tutto il pianeta, le navi battono le prue sulle cime dei palazzi, dettagliate, come nel film. Che se ne faranno di tutti quei PC 30, 40, 90 metri sott'acqua, memoria storica nei server, sul fondo dei nuovi oceani, fine della terraferma. Epoca senza clienti, libertà estrema, Natale, tutto gratis per tutti i morti, continua a piovere. Quindi, che devo dire di più? No, in realtà l'immaginario... Allora, all'inizio del secolo questi pazzi scatenati dei fluff statunitensi, cioè persone che facevano dei testi usando Google, hanno, diciamo, contaminato me e Gerardo Bortolotti in particolare, e ci siamo divertiti moltissimo nei primi anni, appunto, del nuovo millennio, a fare queste cose bizzarre, strane, interrogando Google, prendendo le risposte e mescolandole in maniera che poi, insomma, se volete, se ne parla esattamente più o meno come si fa. E quindi diciamo che il digitale all'inizio degli anni 2000 era anche divertente. Poi, non soltanto per l'intervento, la nascita dei social, ma soprattutto per, come dire... In realtà non lo so come dirlo, semplicemente il Google, se lo usate adesso, non è il Google di 25 anni fa, c'è tutta un'altra faccenda, è molto più asettico, è come paragonare una chiesa gotica di un videogioco con i pixel grossi così degli anni 90 a un Halo 400.0, quanto era arrivato, non lo so. E quindi di fatto adesso non si possono, probabilmente, o vengono molto diverse, fare le stesse cose che si facevano 25 anni fa, però sicuramente diciamo, l'incertezza, il disturbo sulla linea, l'accostamento di materiali incongrui ancora attraverso alcuni, diciamo, anche generatori che si trovano in rete, si possono creare. È forse un po' meno divertente che all'inizio, e non so come chi si misurerà con l'intelligenza artificiale, io ancora non lo faccio almeno con grande divertimento per adesso, farà invece più avanti, si vedrà. Quello che sicuramente a me interessa molto è l'idea in generale della dislocazione dell'inconscio, che si ritorna sempre comunque sul discorso del moi e del je, cioè se tutti quanti abbiamo un qualche cosa di prelinguistico che è incontrollabile e che spesso produce molti danni, ottimi per fare letteratura, se però noi questa cosa la spostiamo all'esterno, in Google per esempio, o in un'altra realtà che ci investe con il suo linguaggio, meglio ancora se è un linguaggio fatto da tanti linguaggi, quindi il discorso che faceva Casey Sidney Mohammed, che ha teorizzato il discorso del googlism appunto 25 anni fa, ecco, lì effettivamente le cose che vengono fuori sono molto molto interessanti. Però appunto, ripeto, i mediatori per questa massa di voci che ci potrebbe raggiungere sono dei mediatori molto pettinati adesso, quindi un motore di ricerca Google non è lo stesso, e quindi purtroppo dobbiamo un po' trovare altri modi o appunto ricercare. Il fatto di essere un motore di ricerca mi mette anche nelle condizioni di dire che i punti interrogativi sono più, molto di più dei punti esclamativi, dei punti fermi. Sempre un po' comunque in ambito laboratoriale, volevo chiederti cos'è che porta appunto un quaderno a un quaderno di scrittura, appunto, a raggiungere una forma, idealmente. Il fatto, per esempio, che questo libro dimostra che in realtà una forma finita non c'è, perché buona parte di questi materiali sono scritti una trentina d'anni fa e passati a una macchina trita tutto in questi ultimi due anni e mezzo. Per cui la mia impressione, posso sbagliare, non so, poi ciascuno articolerà la cosa a seconda della propria scrittura, delle proprie esperienze, delle proprie letture, è che in verità diciamo vale il discorso della costante riscrittura, nel senso che poi comunque non c'è pagina su cui sostanzialmente non si ritorni. L'idea stessa di testo finito ai miei occhi ha sempre avuto più l'aspetto della superstizione che della realtà, però è anche vero che poi invece no, alcuni testi, per esempio mi sono trovato a tradurre un testo di Emily Dickinson, bellissimo, 5 versi soltanto, che francamente ritengo perfetto, cioè non puoi toccare una sillaba. E in italiano è molto difficile perché devi recuperare una rima che non puoi ripetere in italiano, la recuperi con una serie di assonanze, eccetera, eccetera. E mi sono trovato a parlarne con un traduttore molto in gamba, molto bravo, che lavora per grandi case editrici, e lui mi ha proposto ancora altre soluzioni. Quindi effettivamente quello che magari è intoccabile in una lingua, e può succedere, perché in questo caso secondo me non saprei proprio, forse mi dica, insomma, non ce lo può dire, è difficile che sia perfettibile, però per esempio vedi quando passi nella traduzione, che comunque crea un altro oggetto estetico in qualche maniera, effettivamente ritorna plastico, ritorna più plastico di quello che tu t'aspetteresti. Quindi effettivamente, e lì torno poi sempre all'esempio di Retro, di Costa, di Corrado Costa, in cui, cioè allora se tu prendi una sequenza di testi diversi di Giorgio Caproni, per esempio, non puoi togliere una sillaba senza far crollare l'intero. Corrado Costa invece ci dice nel suo testo vocalizzato retro, questo è il retro della poesia, retro, siete sulla facciata B, dovete girare la cassetta, siete dei testoni, girate la cassetta, retro, la poesia è stata dall'altra parte, eccetera. Questo dura 8 minuti, se voi sentite solo i primi 2 minuti è lo stesso, non è che cambia qualcosa, mentre se tu a Caproni gli togli una sillaba, crolla tutto. Quindi l'idea che ho io è che nella seconda metà del Novecento ha, diciamo, aperto tutta una serie di recettori che prima erano più, diciamo, attenti ad alcune modalità di cristallizzazione del testo, li ha aperti a una idea di cristalli che però fanno parte di un fluido e che quindi possono raggiungere delle forme più o meno stabili di fissazione, che poi diventano libri, senza con questo diventare dei monumenti. Ecco, diciamo, una delle parole più comuni nei saggi di Jean-Marie Glaize è monumento, a cui lui contrappone la parola documento. Infatti, hai un punto di vista questa domanda, ecco, abbiamo parlato di forme. Sì. Ce la facciamo, Sì. C'è una mezz'oretta di... Sì. Abbiamo parlato di forme, soprattutto tipo di non forme, cioè tipo di non casellabilità, e in questo senso mi andate a fare con te un discorso storico-letterario in qualche modo, a partire da prosa in prosa. Prosa in prosa, in qualche modo, si pone come prodotto collettivo, o secondo me si impone anche come prodotto collettivo ai critici, all'accademismo che criticavi tu in qualche senso prima nel suo essere statico, come qualcosa di eversivo per quello che è un canone quantomeno condiviso a livello generale, editoriale e anche di immaginario. Di poesia, e non soltanto di poesia, ma anche di prosa breve di genere. Che nel 2000 era era sicuramente più restrittivo, cioè nel senso... Sì, che nel 2000 in qualche modo era anche più forte, proprio perché la domanda è perché questo canone esisteva, nonostante ci sono state esperienze come quelle del gruppo del 63, il gruppo del 93, che comunque hanno, a livello di proliferazione di testi, di idee, di circolazione di senso, quasi per dirla la certo. Jean-Luc Nancy, ha avuto un impatto comunque in quello che è stato tutto il panorama letterario, non soltanto effettivamente quello lì di determinate pubblicazioni o determinati incontri. Il gruppo del 63 ha avuto i suoi riscontri con quello che era il panorama esterno a loro della letteratura, e anche il gruppo del 93 stesso certo. Mi è apparso che si è rapportato molto con quello che era il suo circostante, però a me manca effettivamente il dato del perché queste forme non sono riuscite ad imporsi, come anche un po' prosa in prosa in realtà, se oggi effettivamente tantissima gente non conosce quella che è la forma o la parvenza di forma di prosa in prosa e di quelle che sono delle possibilità poetiche, cioè di produzione del senso e di articolazione della parola, possibilità fattibili, come per esempio dicevi tu, i movimenti di camera attraverso certo. La lingua, i movimenti installativi all'interno di un macrotesto, di un microtesto. Mi chiedo perché effettivamente, storicamente, letterariamente, dal 63 in poi al 2009-2026 non c'è stato questo allargamento di accoglienza. Certo. Ecco, che non c'è stata questa accoglienza. Ci sono alcuni punti fissi storici che sono un po'... uno è il 1971, per esempio, no? Lo sappiamo, quando esce, da una parte esce Trasumanare Organizzar, che è il punto più forte in cui un autore sicuramente molto ostile verso le avanguardie come Pasolini, però sente la pressione dell'oggettualità del mondo esterno, della violenza del mondo esterno, e quindi si apre a una forma molto più sgretolata rispetto alle terzine delle ceneri di Gramsci. Esce Vogliamo Tutto di Balestrini lo stesso anno, esce Satura di Montale, è il Montale che sconvolge i suoi critici, che tuttora ancora oggi hanno delle difficoltà a riconoscere lo stesso autore degli Ossi di Seppia, Occasioni e Bufera, e esce Invettive e Licenze di Dario Bellezza, che probabilmente è il luogo dove questo ombrello che si apre si sta anche richiudendo, infatti è più giovane di tutti quelli che ho nominato fino adesso. E quindi tutto l'arco degli anni 70 si consuma tra una versante che continua imperterrito a lavorare sulla ricerca letteraria, sulla sperimentazione, sulla moltiplicazione anche dei mezzi di diffusione della scrittura. Pensiamo soltanto, a parte che tutto questo andrebbe qui soprattutto contestualizzato dicendo che stiamo parlando del 63 e stiamo parlando della neoavanguardia e stiamo parlando degli anni 70, quindi in particolare io stavo per fare, l'avrete già capito, i nomi di Adriano Spatola, Corrado Costa, Patrizia Vicinelli, eccetera. Ma non ci dimentichiamo che qui a Napoli c'è il gruppo 58, quindi ci sono stati altri autori, che Emilio Villa ha avuto un'importantissima stagione qui a Napoli, in dialogo con Stelio Maria Martini, Luciano Caruso, eccetera, e in contrasto anche con invece le posizioni dell'avanguardia. Anche in Sicilia, tra l'altro, c'è stata un'importante area di scrittori che, soprattutto, ecco, per esempio, che hanno lavorato molto sulla forma breve in prosa. Ora, che cosa succede a un certo punto? Nel corso degli anni 70, che sono veramente un centro nevralgico di eventi, ma soprattutto io su questo ho scritto questo testo qui, che trovate sul mio sito, ma lo cercate su Google, lo trovate, che si intitola L'Italia sommersa e la Francia emersa, tre interrogativi e una constatazione, e faccio questo elenco che da più parti effettivamente è stato riconosciuto come effettivamente una delle possibili spiegazioni di tutto quello che è successo. Fino ancora agli anni 70, fino diciamo all'uscita della parola innamorata, tutte quelle solite cose che si dicono, insomma, che hanno senso, però, cioè a cui reagivano tutti gli autori del a distanza quasi di 10 anni, tutti gli autori del gruppo 93. ma anche prima comunque. Ancora fino a tutti gli anni 70 e parte degli 80, sia dal punto di vista delle occasioni di diffusione di un certo tipo di materiali e di, diciamo, sottolineatura di questa iridescenza delle scritture, quindi di questa indisponibilità delle scritture a farsi catturare soltanto, non solo dalla parola poesia, ma anche da un tipo di poesia. Ecco, questa indisponibilità è stata in realtà sempre più ristretta e cancellata dall'orizzonte storico letterario, soprattutto a partire da una certa altezza degli anni 80, e l'elenco delle persone che scompaiono fisicamente è impressionante. Allora, iniziamo con Calvino, che muore nell'85, Spatola nell'88, Filippini nello stesso anno, Antonio Porta muore più giovane di tutti sostanzialmente, insieme a Balestrini, se non sbaglio, nell'89, Giorgio Manganelli nel 90, Carmelo Samonà muore nel 90 anche lui, Attilio Cavellini muore nel 1990, Costa, un malore, esce dallo studio di avvocato nel 1991, morto. Muore Patrizia Vicinelli nello stesso anno e Luciano Arbizzani, Valerio Miroglio nel 91 lo stesso, Tondelli nel 91, Stefano D'Arrigo nel 92, Germano Lombardi nel 92, Silvano Martini nel 92, Gianni Sassi, che è l'anima, il fondatore di Milano Poesia, che appunto ha dato, diciamo, no, la scintilla al gruppo 93, muore nell'anno in cui finisce il gruppo 93, 1993. Giovanni Testori lo stesso anno, 93, Antonio Neiviller lo stesso anno, Luigi Pasotelli lo stesso, Paolo Colponi nel 94, Luciano Anceschi muore nel 95. Quindi si chiude, chiaramente poi Milly Graffi e Giovanni Anceschi, il figlio, e continueranno il loro lavoro. Il Verri è una delle poche riviste che vive e lotta con noi, però Luciano Anceschi ci lascia a quell'altezza. Giuseppe Guglielmi muore nello stesso anno, nel 95, Beltrametti nel 95, Anna Malfaiera nel 96, Cacciatore nello stesso anno, e nello stesso anno si suicida Mello Rosselli, Giordano Falzoni muore nel 98, Toti Scialoia lo stesso, Vincenzo Accame, grandissimo autore di materiali verbovisivi straordinari e teorico e studioso della scrittura verbovisiva, nel 99, Renato Pedio, mi scordo sempre come si pronuncia, nel 99, Annalisa Loatti nel 2000. Ricordiamoci che il 1986 è l'anno in cui Emilio Villa viene colto da ictus, quindi tutta una serie di sue attività sono gioco forza ridotte. Lui continua a scrivere, continua, però è un problema serio la sua afasia. Poco fuori dal cerchio degli anni 90 scompaiono Giovanni Ragagnin, Carmelo Bene, Emilio Tadini, Giovanna Sandri, Franco Lucentini, Alice Ceresa, Roberto Sanesi. Siamo al 2001 adesso. In Italia si esauriva nell'87 l'esperienza di lotta poetica, Alfabeta, il primo ovviamente, Alfabeta nell'88, Cavallo di Troia nell'89, Tantam nel 91, ovviamente perché muore anche Costa, Videor nel 91, la rivista di in video fatta grazie soprattutto a Elio Pagliarani, e Altri Termini nel 1992. L'impegno di Abiti Lavori finisce nel 93, quello di Molloi nello stesso anno, e smette di uscire anche Rendiconti di Roversi, che non è sicuramente un autore diciamo che possiamo considerare particolarmente affine alla neoavanguardia, ma che è stato un grandissimo osservatore di fatti letterari, politico-letterari, sociologico-letterari, eccetera. Ovviamente resisteva Baldus, che fino dal 1990 al 1996 è stato in attività, e Campo, che è una strepitosa rivista, è stata di Francesco Leonetti a Milano. Ora, e qui siamo all'Italia sommersa. Se noi mettiamo insieme tutti questi elementi e una forte tendenza dall'altra parte dell'editoria a favorire invece un certo altro tipo di scrittura, noi ci spieghiamo tante cose. Vi leggo soltanto una parte di un altro intervento che trovo in breve, spero, e si chiama questo qui, adesso ovviamente non ho rete perché l'ho tolta io, adesso ve lo trovo, così lo cito, Poesia per i lettori. La prossima volta prometto che vengo col PDF. Aspetta. Allora sì, io c'avevo un lapsus, comunque il titolo è, non è poesia per il lettore, ma inverte il titolo dell'antologia di Berardinelli e Cordelli del 1975, che si intitolava Il pubblico della poesia. E questo testo invece si intitola Poesia per il pubblico. E eccolo qua. E osserva queste cose. Allora, faccio il solito elenco purtroppo dei caduti, e quindi, perché è in parte è legato al testo che poi avrei scritto successivamente sull'Italia sommersa e la Francia emersa. Poi, se volete, parliamo del perché la Francia è emersa mentre l'Italia è sommersa. Ma se noi togliamo i nomi, i cinque nomi di Zanzotto, Neri, Gramigna, Ballerini e Maiorino, ai quali io, francamente, ma magari aggiungerei anche Zeigen e Bordini e sicuramente Balestrini, chiaramente, per cui nella Specchio Mondadori esce Caosmogonia nel 2010, ci troviamo a fare un elenco sommario, per carità, di autori che hanno pubblicato nello Specchio, e sono Valduga, Frabotta, Spaziani, Bellezza, Riccardi, Lamarck, Giudici, Conte, Mussapi, Vitale, Raboni, De Angelis, Anetta, Dal Bianco, Bacchini, Cucchi, Risi, Erba, Aurelli, Buffoni, Bevilacqua, Zavoli, Benedetti, Pecora, Rondoni, Copioni, Calabrò, Fiori, Villalta, Cerami, Ramat, Deidie, Bona, Teofilo, Ruffilli. Trovate dei nomi di autori di ricerca? Poi, questo è lo Specchio Mondadori, e quindi questo è lo scaffale di poesia organizzato dal maggiore editore di poesia italiano. E per la Bianca di Poesia il 1980 è uno degli anni della ristampa degli Strumenti Umani di Sereni, libro importantissimo su cui chiunque abbia a cuore la poesia deve essersi in qualche maniera imbattuto, se non proprio formato, e di Foglio di Via e altri versi di Fortini, 1980. Tra gli anni 80 e la metà degli anni 90 escono nella collana i libri di Cavalli, Luzzi, De Angeli, Sorengo, Naldini, Ortesta, quindi diciamo c'è anche attenzione in una certa direzione, quindi, però Ottieri, Bufalino, Erba, Valduga, Bona, Delia, Raboni, Merini, Romano, Piersanti, per arrivare al 1994 di quel, secondo me, capolavoro che è Composita sol Vantur di Franco Fortini. Se osserviamo la fortuna dei nuovissimi, invece, dell'antologia dei nuovissimi, a parte il 1961 della prima edizione, c'è l'edizione, la seconda edizione, che è del 1965, per arrivare a una, virgolette, ultima edizione, che guarda caso esce nel 1979. Dal 1979 si entra in un ventennio in cui i nuovissimi, per non parlare poi Feltrinelli, se uno voleva leggersi negli anni 90, per esempio, segna libro di Sanguinetti, doveva andare in antiquariato, si arriva al 2003, per cui i nuovissimi, nella Bianca Einaudi, riesce nel 2003, terza edizione, per cui ci sarà una terza meravigliosa, come tutte le altre, peraltro, introduzione di Giuliani. Ed è tuttora l'ultima, in senso assoluto. Quindi, allora, se vogliamo fare un discorso di editoria, è anche un po' con questi elenchi che dobbiamo misurarci, cioè non dobbiamo pensare che l'editoria è quella cosa per cui c'è il cattivo che sarà il contesto, saranno i comitati editoriali, sarà l'aria che tira, sarà il mercato che impone o viene detto a qualcuno che debba imporre precisamente certe cose piuttosto che altri, però di fatto i fatti sono questi. Quindi è chiaro che di fronte a una ecatombe di persone che si occupavano di una certa area e a una serie di scelte editoriali di grande distribuzione che sono connotate in un altro modo, è chiaro che c'è, cioè non è che è questo, è rosso e nero, se il nero vince è rosso verde. Ora, io faccio sempre questo esempio, Michele Zaffarano negli anni 90 si trovava a Parigi a studiare degli autori che in Italia non arrivavano e diceva, cazzo, incredibile, Jean-Michel Spitalier, bravo questo Christophe Tarkos, hai letto Nathalie Cantin, ah, per Bacco, Christophe Anna è un critico, insomma, Pierre Alferi, figlio di Derrida, purtroppo morto da poco. Ora, in Italia non arrivava nulla ovviamente, ma è ovvio che non, come poteva arrivare in queste condizioni? Cioè come negli anni 90 poteva arrivare Pierre Alferi o qualcun altro? Quindi lui che cosa fa? Decide di fare una tesi di dottorato, comunque di occuparsi della traduzione di questi autori. Pensate che abbia trovato degli interlocutori in editoria? No. Era internet pronto a disporre di certi strumenti per poter diffondere questi? No. Questo succede soltanto all'inizio degli anni 2000, quando una banda di scalzacani che eravamo noi hanno deciso di mettere su prima un blog, poi un sito, per diffondere gratuitamente questi materiali. Lo hanno fatto e qualche cosina di, diciamo, in tasca, in senso di, per carità, di gloria, non di soldi, ma neanche di gloria, sostanzialmente di riconoscimento dell'esistenza fisica, certificati di esistenza in vita di questi autori è arrivato. E quindi una certa parte, non tutta, di critica letteraria si è resa conto che esiste anche qualche cosa fuori dai confini dell'Italia, così conciato come abbiamo visto. Prosa in prosa, noi esce nella collana nel 2009, fuori formato di Andrea Cortellessa per le lettere, nessuno si aspettava che sarebbe diventato comunque un, non voglio dire un best seller, però comunque qualche cosa di commentato, osservato, giudicato, un caso letterario, il Verri che ci dedica un numero, poi adesso in qualche maniera anche i critici meno legati alla ricerca letteraria, anzi soprattutto quelli, citano spesso prosa in prosa l'assertività. Ho letto recentemente un testo francamente un po' imbarazzante di Lauretano che criticava il discorso dell'assertività. Ora, tutto questo, però comunque, cioè, comunque sono passati 20 anni, dal 2006, dalla nascita di GAM, e quest'anno il 29 giugno GAM fa 20 anni e facciamo il compleanno. Ora, vedete voi in giro nelle case editrici testi di Pierre Alféri, di Jean-Michel Spitalier, di Christophe Tarkos, di Nathalie Cantin, di Casey Sile Mohamed, di... non lo so, ditemi voi, a me sembra francamente di no. Ora, che questo corrisponda a... cioè, noi siamo vivi ancora, io, cioè, voglio dire, al momento mi sento bene, per cui... Ancora non c'è stata l'ecatombe, purtroppo è scomparso alla fine del 2024 uno dei pilastri di questa nostra piccola intrapresa, è Mattana, che è follia, che è Alessandro Broggi. Però ci ha lasciato dei libri con i quali comunque i critici cominciano a fare i conti. Vedremo come e quanto ce li faranno e che cosa si inventeranno in termini di osservazioni critiche, eccetera. Però ecco, non so se ho risposto alla vostra domanda, però credo che, diciamo, il quadro è stato molto chiaro. Assolutamente. Io direi questi 10 minuti, perché noi il 14 febbraio abbiamo avuto in concomitanza con questo incontro un appuntamento sempre laboratoriale legato alla poesia in versi e la produzione in prosa. E secondo me sarebbe molto interessante far leggere a Marco qualcosa di prodotto quello stesso giorno. Anche a me, ad esempio, Gianmarco, sì. Beh, leggo quello che avevo scritto in fatto. Bravo. Beh, mi alzo e almeno si sente. Faccio la per cosa. Chi sta dietro, dai, sì. Ma adesso sì. Qui. Va un po' modificato, però. Vabbè. Però mi sfottono perché cambio sempre le cose di scritto. Sei registrato? Basta, finito. Si cristallizza. Va bene. Allora, vabbè, di nuovo, chi c'era la settimana scorsa già sa che si chiama Appunti per un film chiamato Inverno vecchio stile. Una fiorista dallo strabismo di Venere riposa. Una qualche forza esterna fa muovere una pittrice di acrilici cinesi che mette la tela contro luce perché la luce nel locale è bassa. Interno sera, inverno, proiezione. Delle vecchie in cerchio con montature grosse, una annuisce continuamente, cosa cercano? Musica e pittura, interpretazione. Dante era epilettico, dice una. L'importanza corposa della parola, la reiterazione della parola, non è questo essere impegnativo, ma che tutte le fotografie che scatto verranno dimenticate. Esterno, inverno, sera, scavalcamento di campo. Cosa mi resta ancora di quella storia? Una certa qualità della luce, gli studi che non me l'hanno mai spiegata di ottica, me stesso sopraffacentemente felice di regalare un fiore, la sindrome di Stendhal, buona eredità se consideriamo che la nostalgia è il codice rosso dello splendore, una certa mia bellezza del trauma che è ricorso all'inquadratura fissa e tendenza alla psicosi. Interno sera, inverno, piove, estratto di una lettera non inviata. Che bei colori, dice una vecchia. Brava. Non dobbiamo parlare delle cose brutte, insiste, a prescindere dagli altri, ma scambiare per frammentismo la paratassi. Rivolta come teoria, parassitosi come prassi, l'attenzione ai luoghi, il terremoto come caratteristica dei personaggi. Pure io l'ho cambiato un pochino rispetto al tuo. Alla fine, come dicevo l'altra volta, l'ho intitolata Insonne. L'altra volta non aveva titolo. I quadri senza sostegno, sul soffitto crepe regolari, spettri spietati irrompono sinfonie violinesche dei balconi. La stanza è come se fossi sveglio. Il muro liscio di cemento rassicura perché il legno scabro affaccia da mostro. Grande è sempre stata l'invidia per i liberi. Resterò sempre da questa parte, dietro la porta scorrevole, nel viluppo meschino del dormiveglia, nello spavento per l'immediato futuro, senza aspettare il terzo luccichio dechirichiano dell'alba. C'è abbastanza tempo per ripassare alla mente gli affetti e pensare alla guerra. Gaza, Srebrenica, Cilicia, Dresda, come ancore contro la trascendenza. Ma è sempre stato più vero pensare all'ultima carezza del nonno, all'abbraccio dato oggi a mia sorella. C'è abbastanza tempo per domandarsi se è vero che si verrà esentati dal pensare troppo alla parola non detta, all'inciampo preso in terza media, al perché intrinseco della compresenza di tufo e paritaria sulle strade di periferia. C'è abbastanza tempo per l'assoluzione. Ragazzi, settimana scorsa, dopo anche un confronto, sì, è stato fatto comunque un discorso, ecco, che è emesso in maniera naturalmente molto prepotente e puntuale oggi, su quello dell'aprire effettivamente la propria visione di scrittura ad altre forme, cioè del riuscire a ricercare la propria comodità. Nel senso che, no, cioè ricercare una comodità che sia scomoda naturalmente, nel senso rifiutare quel gesto quasi scontato dell'andare a capo, ma riuscire effettivamente a sperimentare con la parola e in qualche modo ampliare lo spettro di possibilità nel momento in cui si impugna la penna e si prende per mano la parola, come direbbe Ponci in qualche modo. E quindi abbiamo provato a fare questo settimana scorsa, abbiamo letto alcuni testi, ognuno per conto suo in realtà. Secondo me i ragazzi, tutto sommato, hanno risposto in maniera molto buona. Sono usciti molto dalla loro... Sì, per esempio Gianmarco, trovo molto un link tra voi due per la questione dello sguardo cinematografico, certo, in qualche modo, del movimento che prende il testo. È stato bello. Quanti siete nel laboratorio? Quanti persone partecipano? Una quindicina, ventina di persone, sì. Ok. E da quanto è in attività? Da un anno e mezzo quasi, in realtà, ormai. Sì, quest'anno compiamo 2 anni. Okay. E anche l'anno scorso sono stati portati avanti comunque begli incontri, sia con autori che appunto incontri su forme di letterarietà o comunque, ecco, l'essere in contatto con se stessi, l'altro e il mondo, cercando poi di direzionare la scrittura su una base personale o comunque cercando anche, abbiamo anche giocato molto sul mettersi nei panni dell'altro leggendoci a vicenda e sono sempre uscite belle cose, certo, secondo me. A volte testi gruppali, a volte così partiva dalla, anche da snodi tematici oppure da snodi formali, come per esempio questo qui sulla funzione in prosa. Abbiamo sull'arte, ad esempio, anche portando oggetti cari, sì, scambiandoli, e quindi comunque diciamo che anche la nostra è una forma di sperimentazione, sicuramente in senso lato, però penso che sperimentiamo abbastanza. Sì. E siamo sempre qui. Diversamente, sì. Sì, l'anno scorso alle Spark, quest'anno invece. Ah. Alla Mondo delle Spark, invece, quest'anno qui. Io leggerei giusto un altro paio di componimenti. E poi. Puttando a vedere da quando è arrivato. Anche se, nonostante la premessa di Ciro, io comunque provo un grandissimo imbarazzo a leggere questo testo, perché francamente non c'entra niente con quello che abbiamo detto questa sera. Però, per l'amore del laboratorio. Paura della prosa. Da autore ho paura della prosa. Le poesie sono così rassicuranti. Quattro parole e poi non più avanti. In poesia puoi fare attenzione a tutti i particolari. In prosa, invece, come si mantiene la concentrazione? Se solo provo a scrivere oltre il verso, mi assalgono mille pensieri. Mi domando quali sono i confini dell'universo, che cosa ho mangiato a pranzo ieri, dove sono quelle chiavi che ho perso, quel giorno in cui mi sentivo fallito, tu dov'eri? In poesia mantieni sempre il controllo, sei tu a decidere dove andare, la rima obbliga ogni tua scelta. In prosa questa sicurezza scompare, nessuna parola è più così certa, esito, inciampo, scivolo, barcollo. La verità è che la libertà mi fa paura, non voglio assumermi ogni responsabilità, ma sentirmi difeso dietro le mura di schemi preconcetti che mi sono costruito. Non correre il rischio di perdermi nell'ignoto inesplorato, di sentire il fascino del proibito, di oltrepassare il bordo del selciato, nello spazio di un discorso infinito. Beh, se nessun altro vuole leggere, io dichiaro finita, sciolta la seduta. Magari abbiamo anche un po' di tempo per confrontarci, stare insieme più e sciogliere anche un po' la frontalità. Tra l'altro i libri di Marco sono disponibili giù, io ne approfitterei anche per un bell'autografo, come farò io praticamente se bastante. Sostenete la piccola dei Torino. Sempre, sempre. Grazie. Grazie.